Lacan mi guarda dalla pagina con il suo lessico impossibile. Heidegger ride tra le nuvole. Questo psichiatra ha bisogno di uno psichiatra, è terribile. E io che vengo dall'oltremoderno, dove il linguaggio vale sempre un po' meno, mi ritrovo incastrato nei suoi seminari a cercare un senso tra mille specchi distorti e necessari. Ma Lacan dice che l'inconscio è linguaggio, una voce che parla nell'altro, nel grande altro io, piccola soggetto barrato in viaggio, cerco un punto di capitone per restare saldo. Catena infinita di significanti, esse che richiama se senza pietà. Non c'è rettangolo tra conscio e inconscio, ma un nastro di Möbius che non finisce mai. Una superficie sola che si attorciglia, uno strano vaso ricavato da una sfera. Nello schema ottico l'immagine a fuoco, un mazzo di fiori Edipo che ancora ci osserva. Il fantasma riempie il vuoto del simbolico, una mancanza che l'immaginario colorerà. Se il punto di capitone salta nel delirio, la catena dei ragli è reale, non tiene più la sua identità. E Lacan dice che l'inconscio è linguaggio, una voce che parla nell'altro, nel grande altro io, piccola soggetto barrato in viaggio, cerco un nome del padre per restare saldo. Non è soltanto il tabù dell'incesto, ma il richiamo dolce al grembo materno, massimo piacere, minimo sforzo, istinto di morto, un sonno profondo, un ritorno all'inanimato eterno. Schreber sogna un dio che lo attraversa con nervi divini come fili di luce. Qui il grande altro prende il nome di Dio e il desiderio si contorce, gode, si traduce. E nell'era in cui Dio è morto davvero, l'uomo postmoderno gioca a essere onnipotente, uccide l'altro, spezza il legame, ma resta quel vuoto che brucia ancora nella mente. Lacan dice che l'inconscio è linguaggio, una voce che parla nell'altro, nel grande altro io, piccola soggetto barrato in viaggio, tra Nietzsche e Schreber un desiderio che non ha traguardo. C'è il plus godere dietro l'angolo buio, un plus valore di godimento che non basta mai. Tra Marx, Althus e Rey Francoforte, il sadismo danza sui nostri, non saprei. Allora capisco perché queste cure funzionano mentre punzecchiano il linguaggio senza pietà. Colpiscono i nervi dell'essere, dell'ontologia, anche se scambiano il dito con la luna che brillea. Così tra nastri di Möbius e vasi immaginari, tra grandi altri muti e punti di sutura, Lacan rimane difficile, oscuro e necessario, un labirinto di parole che a modo suo cura. E se l'inconscio parla in ogni nostra frase, forse la strada per uscire da questo relativismo è ascoltare quel simbolo che ci attraversa e fare della mancanza il senso del nostro esistere, non un abisso.